Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. Alessandro Milan, fazioso, funicolare senza corrente. Uno, nessuno. Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera. Eccoci qui, cari ascoltatori, 9-7 minuti per una puntata ricca, come sempre, di temi, ospiti, riflessioni, spero che vi facciamo fare e facciamo con voi e condividiamo all'800-24-0024, se volete via WhatsApp al 349-238-6666. L'Alpino è lì in regia a fianco a Miriam Lucchetti, con la nostra Elisabetta Fusconi, con il nostro Lorenzo Nespoli. Oh, non è che io li cito per dire che ci ammassiamo tutti quanti, tranquilli, siamo chi smart working, chi separato, chi al bar in questo momento, chi a far colazione, che però siamo tutti, no scherzo, siamo tutti ben presenti e sul pezzo, come si suol dire. Oggi è in arrivo anche il signor Bonetti, signor Leonardo Manera. Ma ci stava bene un applauso, visto che non glieli facciamo mai, poi dopo dice che lo trattiamo male. Vabbè, sì, un po' in ritardo, strascicato, va bene, dai. Un po' come l'inno del Pissi, che lo vuoi far partire, ma anziché no. Dai, vai Alpino! I will not be easy, and it will not be easy. Cari ascoltatori, sapete che poi lunedì parleremo, c'è il Radio Day di Radio 24 sulla scuola, ne parleremo, tornerà Maria Pia Ceci, però guardate che ieri mi ha scritto un'operatrice della scuola infuriata, arrabbiata, perché ha detto che io ho detto che sono folle le regole a scuola, è folle il contrasto tra le regole a scuola e quelle regole che non ci sono fuori dalla scuola. Questa è la follia italica. La follia italica. Prima Deborah Rosciani qui in studio mi ha detto: tieni la penna. No! Gli ho detto: non passarmi la penna! Che è vietatissimo! Ah no, è vietatissimo solo a scuola. Solo a scuola è vietato passarsi le penne. Perché quando andate solo a scuola è vietato passarsi la merenda, giuro, è vietato passarsi la merenda, è vietato passarsi una gomma a scuola. Ma scusate, ma quando andate al bar, Alpino, tu che sei noto frequentatore di bar, è vietato passare la tua moneta di un euro alla cassiera? No, mi risulta, no, tu la prendi con le mani, la metti lì e lei la prende con le mani. Non è la stessa cosa del passare la penna a scuola. Cioè, se il barista ti fa il caffè, non prende il cucchiaino con la mano, te lo mette sulla tazza e tu lo prendi con la mano. No, a scuola è vietato. È vietato a scuola, solo a scuola. Fuori dalla scuola no. Questa per me è la follia. Allora, decidessero. È vietato passarsi oggetti. Cioè, io vado dall'edicolante, prendo il corriere, il Sole 24, anzi, prendo, cancella questa. Prendo 5 copie del Sole 24 Ore. Me le passa. A scuola è vietato passarsi fogli, solo a scuola. Io non ho capito. Infatti Massimo Gramellini oggi, mentre sto per abbattere un microfono sul Corriere della Sera, scrive, sembra che mi sembra essermi entrato un po' nel cervello, però poi lui lo scrive con la sua penna sopraffina che io non ho. Il termometro del paese. Ultime notizie dalla scuola più pazza del mondo. Il Piemonte è la prima regione a non fidarsi dei genitori, a pretendere che scrivano sul diario la temperatura corporea del pargolo. Altre ne seguiranno. Avere scaricato la prevenzione sulle famiglie è stata una trovata bizzarra. Bastava comprare dei termoscanner invece che dei banchi a rotelle, così da poter misurare la febbre là dove serve farlo. A chi ha scritto le norme? Avrà idea di come avvenga il risveglio delle famiglie italiane? Non ci troviamo nella cascina del Mulino Bianco, ma in un luogo caotico popolato da gente assonnata, perennemente in ritardo, che si ingorga intorno alla caffettiera, entra e esce dal bagno, litigando sulle precedenze. In questo clima, che ricorda i gironi più cruenti dell'inferno, tutti dovrebbero ritagliarsi 5 minuti di serenità per infilare termometri sotto le ascelle altrui? Cara Grazia, se lo farà, chi vedrà suo figlio trascinarsi con gli occhi lucidi e un principio di bronchite? Gli altri se ne infischieranno, pronti a giurare, in caso di contagio, che a casa il pupo stava una meraviglia e di sicuro si è infettato in classe. La mediocrazia che ci governa lo sa, ma anche lei se ne infischia. L'unica cosa che le interessa non è risolvere il problema, ma scaricare la responsabilità su qualcun altro, perché la sua linea guida consiste da sempre nel mettersi nelle condizioni di poter dire «Non era di mia competenza!» Ecco, così Massimo Gramellini cosa vi vado a dire da giorni? Che sono delle norme, in questo dico folli, folli perché nella vita reale non ci sono queste stesse norme, tutto per dire «Noi siamo a posto, non è di mia competenza, io, signor burocrate, ho rispettato le regole». Cos'è che dice Crisanti? Adesso bisognerebbe abbassare la temperatura non più 37,5 per andare a scuola, per non andare a scuola, ma 37, cioè, ecco, c'è anche questo. 37, no, non ci si mette d'accordo su nulla, su nulla. Se ci crediamo sul serio, alla temperatura deve essere presa con la stessa strumentazione in tutte le scuole e sicuramente anche abbassato la soglia, perché i ragazzi sono per la maggior parte asintomatici e sicuramente un livello di 37,5 a mio avviso era già troppo alto. Era dove? Credo da Formigli, credo di aver riconosciuto Formigli. Sono ripartiti i talk show. Vabbè, allora, il tema è la paura. Siamo terrorizzati dalla paura. E come diceva qualche giorno fa il quotidiano nazionale Massimo Cacciari, paura deriva da phobos, da qui le fobie. E ha anche la stessa radice di feugo, che vuol dire fuggire. Ecco, se la paura ci fa fuggire, è un disastro. È una pre-morte. E quindi Cacciari dice... torniamo a vivere con le regole, perché la paura uccide. E oggi, sullo stesso tema, Paolo Giordano, lo sottolineo, scrittore, matematico, editorialista del Corriere della Sera, la paura ci ha aiutati, parte da questo presupposto, dice Paolo Giordano e scrive, è vero, la paura ci ha aiutati, è stata salvifica a marzo, quando ha impedito che sottovalutassimo ulteriormente una minaccia già sottovalutata e ci ha tenuto fermi a dispetto di tutto. Ma ora, quindi la paura individuale, scrive Giordano, va rispettato, ma ora va superata. Va superata. E qui Giordano fa anche un appello all'informazione e ha ragione. Io sono il primo critico a volte dell'informazione. E scrive Giordano, quando leggeremo da lunedì che ogni focolaio acceso a scuola si guadagnerà il titolo a caratteri cubitali, tutti contagiati a puntini puntini, oppure isolata la scuola di puntini puntini. Ecco, se cominceremo con gli allarmi, l'anno scolastico sarà un travaglio. Verremo assordati dalle sirene e nessuno degli 8 milioni di studenti riuscirà a concentrarsi sulle lezioni. Allora meglio dircelo, scrive Giordano, i focolai ci saranno. È probabile che saranno anche molti, eppure non è detto che siano troppi. Cioè troppi in relazione alla totalità delle classi. Ecco, qui esce il matematico Giordano a dire, se anche ci sono 100 classi con dei contagi, su 8 milioni di studenti statisticamente sono quasi nulla. Quindi no agli allarmismi, no alla paura, alla paura. Io voglio salutare Luciano Capone del Foglio, ben ritrovato Luciano, grazie di essere buongiorno qui. Buongiorno Alessandro. Tu hai paura? No, sì, hai paura. Ma moderatamente, sono cauto, diciamo, però paura, cauto, diciamo, al momento no, per fortuna. No, perché la paura, tu che sei anche un economista, la paura incide anche sull'economia, sulle scelte economiche, è qualcosa che, insomma, farsi guidare dalla paura. Cosa può... sono le aspettative contano tantissimo, cioè cosa uno si aspetta dal futuro, cosa uno immagina, guida le scelte dei consumatori, degli investimenti, quindi un po' tutta l'economia è basata su cosa ci si aspetta dal futuro, diciamo, più prossimo, un po' più più a lungo termine. Sì, e quindi sì, conta, diciamo, la paura. Allora, tu hai fatto un articolo molto interessante sul Foglio, tra poco ci arriveremo, ieri, parlando di vaccini, parlando di Big Pharma, però fammi salutare uno psichiatra italiano che vive a Cambridge da diversi anni ed è uno dei volontari della sperimentazione del vaccino di AstraZeneca, quella sperimentazione che al momento è stata sospesa, leggevo oggi, anche in India. Antonio Metastasio, buongiorno dottore. Buongiorno. Grazie di essere qui. Allora, intanto, come si diventa cavie? Così è una curiosità che credo tutti abbiano. Cioè, intanto è una scelta personale, ovviamente, ma come mai uno lo fa nel suo caso, per esempio? Ma diciamo per due motivi molto, molto semplici. Diciamo, uno è così in generale, come cittadino, essendo una persona che per fortuna sta bene, e poi facendo il medico, quindi sono più esposto al virus, ero. Sono diciamo uno dei migliori cavi, tra virgolette. Mm. Dopo è anche importante come medico, diciamo, in questo periodo dove un trattamento così importante come i vaccini, che viene messo in discussione in molti casi, sì, secondo me è importante anche prendere una posizione netta. Quindi io non sono favorevole ai vaccini come diciamo terapia profilattica data di routine, sì, ma anche ritengo, e questo lo dimostro anche in prima persona, che i vaccini siano sicuri anche in fase sperimentale. Nel suo caso sì, non è successo nulla, infatti lei dice ho preso parte, non c'è stato nessun evento avverso, come si chiama, no, in questo caso. Cioè è andata bene, cosa è successo? Le hanno fatto una dose, due dosi, come funziona? Sì, allora, per ora una dose sola, sto aspettando a settembre il richiamo, quindi a fine settembre avrò la seconda dose. Che ci sarà comunque anche se è stata sospesa la sperimentazione? Sì. Perché guardi, che io sappia, poi dopo magari nei prossimi giorni le confermerò, però diciamo il mio ramo, diciamo, della sperimentazione non è stata sospesa. Mm. Che io sappia non arruolano più nuovi okay, i pazienti, però diciamo questa coorte di 50.000 persone rimane nella sperimentazione. Sì. Quindi io per ora non ho ricevuto nessuna comunicazione ufficiale, quindi per me a fine settembre l'appuntamento rimane. È confermato. Tra l'altro, quando si parla di possibile evento avverso, già c'è il condizionale, cioè c'è stata una cavia, chiamiamola così brutalmente, che, nella quale è insorta una problematica. Intanto bisogna vedere se c'è un nesso causale, perché questa è la. Però nella prudenza è stata sospesa la sperimentazione. E questo diciamo è un fatto proprio che dimostra la serietà e la sicurezza con cui queste sperimentazioni vengono fatte, perché diciamo se noi pensiamo anche al tipo di pressione magari economica, politica, ma anche morale, no? Diciamo, uno trova il vaccino per il Covid che hanno gli sperimentatori, invece avere la forza di dire no, guardate, c'è stato un evento avverso, vogliamo mettere tutto in pausa, vogliamo analizzare cosa è successo e poi vediamo, e poi continuiamo, riprendiamo. Ma da questo punto di vista mi faccia tornare appunto a Luciano Capone del Foglio, che se hai una domanda, tra l'altro Luciano è qui, puoi farla anche tu ad Antonio Metastasio, se ti faccio intanto io una domanda, perché tu ieri hai scritto proprio questo, il sunto del tuo editoriale sul Foglio è stato questo qui, cioè le aziende farmaceutiche, Big Pharma, spesso accusato di voler fare solo profitti sulle spalle e sulla pelle di noi cittadini malati o potenzialmente malati, in realtà guardate che in questo momento sono molto più prudenti, che ne so, di un Trump che vuole il vaccino perché deve vincere le elezioni, o di Putin che dice che il vaccino c'era già, ma voi stessi sul Foglio dite insomma qualche dubbio c'è. Allora chi è che rema per la velocità del vaccino e chi invece è più cauto e prudente? Beh, diciamo che appunto le aziende appunto non sono dei benefattori, diciamo, guardano sempre al profitto, ma in questo caso il profitto, il valore delle aziende regola anche il comportamento di queste imprese, che se dovessero, diciamo, scoprire un vaccino avrebbero ovviamente un loro ritorno, ma se le cose dovessero andare male subirebbero dei tracolli in borsa, ma anche cause e risarcimenti, quindi pagherebbero di tasca loro in maniera, diciamo, notevole, anche avrebbero un danno reputazionale, d'immagine, appunto, che farebbe crollare il valore delle aziende, e questo le spinge, diciamo, anche ad una certa cautela, come si è visto nel caso dell'AstraZeneca, ma anche in America tutte, diciamo, le più grandi multinazionali che stanno sviluppando queste sperimentazioni hanno scritto una lettera congiunta, perché proprio in America, come accennavi tu, Trump, per motivi elettorali, che ha un interesse, diciamo, di brevissimo termine, cioè le elezioni presidenziali di novembre, sta facendo pressioni politiche notevoli per insomma, annunciare la scoperta di questo vaccino prima delle elezioni, perché sì, potrebbe farsi vincere le elezioni, e quindi accelerare i protocolli, i processi scientifici autorizzativi. Queste nove multinazionali, i loro amministratori delegati, hanno fatto una lettera, un appello, lettera appello congiunta, in cui tutti insieme si sono impegnati, diciamo, a rispettare tutto l'iter, diciamo, tradizionale, per avere la sicurezza che intanto questo vaccino non sia dannoso e poi che sia, sì, efficace. No, tra l'altro, scusami un attimo, Luciano, perché giustamente l'ascoltatore dice, ma lo chiede veramente senza polemica, si parla di evento avverso, cioè che vuol dire è morta la cavia? No, c'è stato un problema, credo, legato, è stato riscontrato in questa cavia un problema al midollo, si sta verificando intanto se ci sia un nesso causa-effetto tra vaccino e questo problema. Mi pare di aver capito che, tra l'altro, la persona sta bene, è stata già dimessa o verrà dimessa, però nel dubbio ci si ferma, no? Prego. Ci si ferma, appunto, questo dimostra anche questa cautela, si sospendono i test e si cerca di accertare le cause, diciamo, di questa potenziale, come dicevi tu giustamente, reazione avversa. E allo stesso modo, dicevo, Putin ha annunciato, diciamo, la scoperta di questo vaccino russo, a cui non sono in tanti a credere, e già, appunto, perché lì c'è anche una battaglia geopolitica, quindi la politica ha interessi diversi, mostrare il proprio predominio, aumentare la propria sfera di influenza attraverso questo vaccino, che infatti aveva come nome quello di Sputnik, che ricorda, appunto, le guerre per la conquista dello spazio del secolo scorso. E anche in quel caso, diciamo, è abbastanza bizzarro che sia stato un leader politico ad annunciare un vaccino, e ci sono, appunto, molti dubbi sulla comunità scientifica. C'è stata una lettera di molti ricercatori sull'Lancet che chiede chiarezza su questi dati russi, che non sono poi così chiari, anche perché lì si parlava, prima, diciamo, il dottore, l'ascoltatore prima, parlava di 50.000 partecipanti a questa sperimentazione. In Russia i numeri sono molto più contenuti. E quindi, paradossalmente, si accusa Big Pharma, le aziende farmaceutiche, di pensare solo ai soldi e non all'interesse dei cittadini. Ma, diciamo, in questo caso è più la politica. È la politica che spinge. Ma d'altronde, perché ha un interesse di brevissimo termine. Molto come no, come no. Immaginate quanto può essere comodo davvero per Trump dire ho il vaccino, magari un 20 giorni prima delle elezioni. Sarebbe bello per Trump, no? Invece adesso si limita a dire di avere l'arma di fine mondo. Comunque, io tornerei, dottor Metastasio, ma lei non ha avuto cioè ha approcciato tutto questo senza la minima paura, minima proprio. Sì, io, diciamo, anche quando sono andato, chiaramente mi sono prima documentato, poi ho parlato con i colleghi che gestiscono, diciamo, la sperimentazione, e, diciamo, sì, devo dire, l'esperienza finora è stata estremamente positiva, anche perché, per fortuna, proprio non ho avuto nessun effetto collaterale, neanche dolore, diciamo, dopo l'iniezione. Quindi, diciamo, devo dire, non ho niente, diciamo, da dire in termini di effetti collaterali, problemi, eccetera. Quindi, per me è stata è stata un'esperienza solamente positiva. Sì, penso si dice in maniera retorica, uno lo fa anche per l'umanità, un pochino sì, cioè, perché se non ci foste voi, come dire, non si potrebbe, certo, superare quella fase per cui un vaccino poi viene messo sul mercato. Io guardi, chiaramente questo Covid è una grande tragedia, tutti siamo stati provati, molte persone hanno perso la vita o sono rimaste seriamente invalide, quindi famiglie distrutte, insomma, diciamo, la gravità è enorme. Quindi, se riuscissimo a sconfiggere il Covid entro pochi mesi con un vaccino, sarebbe una cosa meravigliosa. Quindi, diciamo, possiamo chiedere, lo chiedo anche a molti ascoltatori, se c'è una remunerazione per questo tipo di lavoro? No, cioè, allora, sì, nel senso estremamente minima, mi spiego, a fine sperimentazione che dura un anno sono tipo, non so se 400-500 sterline, ma che cosa del genere. Ok. E quindi parliamo, se noi vediamo le ore che uno passa per fare questa sperimentazione, perché, diciamo, servono sono state due mezze giornate, sì, sì, la prima visita non è neanche il rimborso speso, quando c'è stata l'inoculazione, poi dopo devo ritornare adesso a settembre, ogni settimana devo fare un tampone, cioè proprio sarà una remunerazione di non so nemmeno 10 euro l'ora. No, ma è chiaro, neanche un rimborso spese su esatto questo. Allora quello che è importante questo perché giustamente da un lato dice sì, il tempo tra virgolette te lo paghiamo, però quello che è importante è che non sia lo stimolo finanziario quello che poi spinge le persone a fare i volontari, quindi è questo, questo importante. Sì. Io vorrei capire, Luciano Capone, sempre tornando sul tema appunto Big Pharma, va bene la cautela, mi inquieta però quando scrivi, come hai fatto ieri, non è detto che gli interessi degli stati, della politica, coincida con quello dei cittadini. Dovrebbe essere proprio la base della politica, invece no, il bene comune. Purtroppo diciamo, non è così, non è mai stato così, bisogna essere realistici, non vuol dire che non coincida mai, può coincidere ma non coincide necessariamente, lo vediamo appunto in questi casi dove la politica ma giustamente ha le pressioni delle persone e cerca no, di trovare delle soluzioni, ma in Italia abbiamo grandi esempi di questo caso. Pensa alle sperimentazioni sulla terapia di Bella, sono state fatte dalla politica, decise dalla politica e tutte diciamo, le aziende farmaceutiche, la comunità scientifica sapeva che non avrebbe portato a nulla, come il caso Stamina, cioè le pressioni popolari, gli interessi politici incidono su queste decisioni che spesso cercano il consenso ma che non è necessariamente l'interesse collettivo, la ricerca del consenso. E la politica è spinta da queste pressioni che sono molto forti, cioè, bisogna anche mettersi nei panni dei politici, la volontà di avere un vaccino subito diciamo anche molto umana, ma questo può spingere a fare degli errori in buona fede o in cattiva fede se uno vuole approfittarsene, no? E dovremmo considerare semplicemente che meno di un anno fa è comparso questo virus, cioè noi a dicembre dell'anno scorso non conosciamo neppure l'esistenza di questo virus. Dare per scontato che dopo 10-11 mesi ci sia un vaccino, diciamo, sarebbe quasi un miracolo, ma non dovrebbe essere la cosa più naturale. In genere i tempi sono molto, ma molto questo più è il dubbio. Lunghi. Io una volta ho scritto su Facebook, quando Putin ha annunciato questo vaccino Sputnik, che pur nella mia ignoranza, ho scritto: forti dubbi e nutro forti dubbi su questo vaccino russo. Subito l'accusa: perché, cos'hai contro la Russia? Ma non è questo contro la Russia, l'avesse annunciato anche come dire la Bolivia, i tempi sono un po' sospetti, dicono tutti ci vogliono 3 anni, com'è possibile che in Russia hanno trovato un vaccino in 10 mesi, non so, 11 mesi, ecco, non è, quindi è un sospetto non su da dove viene ma è sospetto, ecco, no? Capone, tu confermi e voi lo scrivete con Enrico Bucci sul foro. Ma come dire, lo scrive Enrico Bucci, che diciamo uno scienziato che segue tutte queste cose quotidianamente sul Foglio dall'inizio, ma non è il nostro dei giornali, cioè ci sono tantissimi scienziati che hanno scritto a Lancet, che è una delle più prestigiose riviste scientifiche, tutta una serie di questioni e di dubbi sulla trasparenza e la qualità di questi dati. Cioè, come dire, lo standard usato per fare questo vaccino nella sperimentazione, secondo buona parte, gran parte, no, una parte della comunità scientifica, non è così elevato o così trasparente. Anche perché mettiamoci d'accordo, o dite che vogliono il profitto, oppure se volete dire ci vuole cautela, allora permettete di dare dei dubbi, di sollevare dei dubbi sul fatto che una nazione o un presidente Putin annunci in tempi lampo un vaccino. Ecco, io ho dei dubbi anche fortissimi. Perché non vuol dire appunto essere antivaccinisti, perché poi antivaccini sono contro i vaccini già certi, sperimentati e di provata. Vuol dire essere rigorosamente pro-scienza. Ecco. Esatto, anche perché un eventuale defiance di un vaccino creerebbe un danno di credibilità a tutti i vaccini che già esistono e a tutti i protocolli scientifici, cioè diciamo c'è un danno che andrebbe oltre su un patrimonio di credibilità che su questi campi diciamo la comunità scientifica e le aziende si sono costruite nei decenni, quindi non c'è solo in ballo il Covid ma tutta la credibilità di poi di dopo settore. Dopo aumenta la paura, visto che ho iniziato proprio da questo. Io ringrazio Luciano Capone del Foglio, ringrazio Antonio Metastasio, psichiatra italiano che vive da anni a Cambridge ed è uno dei volontari della sperimentazione del vaccino AstraZeneca in collaborazione con Oxford, con l'IRBM di Pomezia e tutto ciò che è stato, sapete, sospeso. Dopo la pubblicità c'è Leonardo Manera, ma arriva con noi anche il mitico Diego Bianchi, il mitico Zoro, tra poco. Uno, nessuno, 100 Milan. Eccoci qua alle 9:34 minuti, è arrivato il zio Bonetti, Leonardo Manera. Con un discreto anticipo, aspettate che mi sto stirando perché... È una roba vergognosa. Mi sto stirando perché è faticoso, stamattina ho preso la metropolitana tra l'altro. Sì, e com'è, vuota, piena? Giusta? È semi piena, diciamo, anche negli orari di punta è semi piena. Ma semi piena nel senso che la gente rispetta le crocette, le sedute? Sì, rispetta abbastanza. A un certo, sai che ci si può sedere in metropolitana un posto sì e due posti no. Giusto. A un certo punto, all'altezza di Cadorna, è salita una signora e si è seduta proprio accanto a me, anche piacevole di aspetto. Io ho avuto il dubbio, sto qui, glielo dico, però è anche carina, quindi rimango comunque seduto accanto a lei. Voi capite. Oppure mi alzo e vado. Sono stato lì due fermate a pensare. Ma perché sei seduta lì, che ci sono tanto di... Sarà il mio fascino irresistibile. Ho detto, ma questo bel manzo, cioè, perché distanziarmi da questo pezzo d'uomo che ha 53 anni e è ancora così avvenente, con una muscolatura che emerge prepotente pur da sotto la maglietta. E quindi... Ha fatto esattamente tutti questi ragionamenti, certamente. Dopo due fermate mi sono alzato io, perché mi sembrava brutto dirle di allontanarsi, e sono andato a appoggiarmi a quei pali che ci sono la metropolitana. Vabbè, questa potrebbe essere la tecnica. Era una negazionista, allora, evidentemente. Vero che se ne fregava proprio, ma io. Tu hai. Cioè, sì, no, vabbè. Ma nel senso, io la capisco anche, perché il mondo che c'è fuori è così. E quindi. Cioè. Poi non capisco perché in tutti i posti dove vai al chiuso ti misurano la febbre, per esempio. Invece in metropolitana no, che si sta anche più attaccati. Quindi sono tutte cose che si fanno per io, così. Io ho chiesto, non ho capito perché è vietato scambiarsi una penna, una gomma o la merendina a scuola, visto che è così. Poi quando vai al bar tu dai la monetina di un euro e quello la prende con le mani, cioè, quindi ci si scambia. Oppure se dici mi presta la penna, non è che è vietato nel mondo reale, però a scuola sì. Però guarda, tu hai anche sonno. L'unico che qua è autorizzato ad avere sonno, secondo me, è il mitico Diego Bianchi, lo Zoro. Buongiorno Zoro, come stai? Buongiorno a voi. Buongiorno. Che hai sonno, mi hanno detto ha sonno. No, vabbè. Ha fatto tardi, così. Ha fatto tardi. Diciamo il giovedì prima di ogni puntata la passo, la notte la passo a montare il pezzo della puntata, quindi in genere faccio tardi, insomma c'è di peggio. Perché oggi riparte Propaganda Live, insomma, oggi riparte, prima puntata, e insomma, come tutte le prime puntate c'è un po' di tensione. Già c'è la tensione, la paura, che se... Ma ecco, che osservatorio avete voi di gente? Secondo te la popolazione è terrorizzata, impaurita, è tranquilla, è serena, è cautamente preoccupata? Che Italia vedi, Zoro? Ma io mi baso sull'esperienza personale, ovviamente, non ho visto nulla di tutto ciò, ho visto un'estate molto, anche fin troppo rilassata dal mio punto di vista, c'era un po' un'atmosfera da liberi tutti e così, insomma, si faceva quello che non si poteva, e poi a un certo punto c'è stata pure la chiusura delle discoteche dopo Ferragosto, perché forse si stava esagerando. E il tentativo, anche comprensibile per carità, di salvare la stagione estiva è stato interpretato da tutti come non c'è più il coronavirus, e questo almeno nei comportamenti di molti, ovviamente non di tutti. Poi arginare i più giovani è stato quasi impossibile, ma non gliene faccio neanche una colpa, insomma, lo vedo normale, anche perché poi l'esempio dei più grandi non era il massimo, quindi sì. E lì in studio avrete pubblico presente, distanziato, come si svolge? Assolutamente nulla di tutto ciò. In studio non avremo nessuno, ricominciamo da come abbiamo finito. I cartonati non sono male. Probabilmente le nostre sagome, che poi hanno così ispirato tante altre situazioni simili, e questo ci ha fatto piacere, e ovviamente quelle le cambieremo. Ci sarà un turnover delle sagome, che però ovviamente non è la stessa cosa del pubblico. Poi noi ci chiamiamo Propaganda Live, quindi sul pubblico puntiamo molto, è un elemento non così a corredo del nostro programma. Non so se, visto che voi pizzicate, anche pescate i video, le dichiarazioni, tutto quello che gira in rete di interessante, non so se quella del governatore Cirio del Piemonte l'avete già messa in canna, come si vuol dire. Ho intravisto qualcosa. Facciamo sentire, magari può interessare. Cirio, governatore del Piemonte, ha elogiato il ritorno, bisognerebbe tornare all'educazione fisica, solo che ha citato il fascismo, non si capisce perché, insomma, mens sana in corpore sana, vabbè. Nel ventennio fascista c'era talmente cura del corpo e talmente attenzione durante quel periodo nella scuola, alla ginnastica, che per reazione, quando è caduta la dittatura, è quasi stata cancellata dalla nostra scuola. E questo è un grave danno, perché i soldi che spendiamo a far crescere bene i nostri ragazzi li risparmiamo poi nella salute. Vabbè, è un grave danno. Allora, ma io dico, ma non poteva dire che è un grave danno la perdita di ore di educazione fisica senza citare il fascismo? Poi ovviamente ha detto io sono antifascista, non vi permettete. Certo, tanti amici antifascisti, no. Come si dice in questi casi. Vabbè, dai, no, sarà antifascista davvero. Vedi, stamattina mi ero svegliato comunque di buon umore, adesso non le avevo ancora sentite queste parole, subito il veleno mi sale, anche perché poi sono giorni in cui questa esaltazione della forza fisica purtroppo ha produce esiti tremendi, nefasti, e spesso per dire che ci sono dei comportamenti fascisti c'è bisogno di avere la tessera del Partito Nazionale Fascista, quando non è così, ecco, insomma. La cultura fascista è una cosa che purtroppo, come evidente anche da queste parole che mi avete appena fatto sentire, è ben presente, e se un governatore di regione dice così a cuor leggero una frase del genere, che io ammetto avevo letto qualcosa ma non l'avevo sentita. Cosa pensi di... È molto grave. Hai visto che anche Chiara Ferragni ha detto più o meno queste cose? La cosa incredibile è che ritrovare, che ne so, Zingaretti che dà ragione a Chiara Ferragni, non perché non si debba dare ragione a Chiara Ferragni, ci mancherebbe, mi sembra a questo momento uno degli intellettuali più lucidi del nostro tempo. E l'ideologo potrebbe essere l'ideologo del PD, Chiara Ferragni. Però quando le parti si rovesciano uno si preoccupa un po'. Si preoccupa, in teoria la visione la dovrebbe dare il segretario del partito e non Chiara Ferragni. No, ma tra l'altro noi, per esempio, il nostro grande amico è Iuri Chechi, spesso l'abbiamo ospite, Iuri Chechi dice è sbagliato aver abbandonato l'educazione fisica, adesso i ragazzi non sanno fare le capriole, però non ha mai citato Mussolini, cioè non c'è bisogno di citare Mussolini per questo. Riappropriamoci tutti delle cose giuste e normali, voglio dire che fare attività fisica sia una cosa bella e utile e importante, non è una roba che hanno deciso i fascisti, insomma, è sempre stato così e sempre così sarà. Sì. Altra cosa è l'esaltazione della prestanza fisica per fini discutibili, ecco. Insomma, sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. Sì. So che tra gli ospiti oggi c'è il mio mito Don Winslow, grandissimo. Porca grandissimo, miseria. Cioè, ragazzi, leggete tutta la trilogia di Don Winslow, sul narcotraffico. La lettura estiva da 1000 pagine, sì. Trittico, tra l'altro, quindi 800, sì. 800, 800, sono 2000, le prime 500 è fatta. è così, e vabbè, si parlerà immagino di elezione americane. Diciamo, se sei in fissa, come se, insomma, dalle parti mie, come me, come tantissimi nel mondo, insomma, il mio non sono originale nell'essere un lettore di Don Winslow, sappiamo di cosa parliamo, e lui, tra l'altro, tra essere un grande scrittore, è anche molto attivo politicamente. Se lo si segue sui social, diciamo quasi tutti i giorni lui scrive qualcosa sulle elezioni americane, in particolare contro Trump. Da questo punto di vista, diciamo, non è stato più distante, siccome ci sono le elezioni americane alle liste, oggi tra l'altro è 11 settembre, quindi una data per il mondo, in particolare per gli Stati Uniti, importante. Ci pensavo stamattina, ce lo siamo un po' dimenticati, poi l'anno prossimo saranno 20 anni, quindi tornerà in auge, però effettivamente ci ho pensato proprio, è l'11 settembre, no? Ormai l'11 settembre sembra un evento storico in qualche modo, entra a far parte quasi della storia ormai, sì, ecco, non avevo realizzato che sono passati già 19 anni, quindi siamo invecchiati parecchio tutti. Allora, con questa mestizia. No, esatto, io volevo concludere, io volevo dire un'altra parola, però ti abbiamo già messo, dici, di malumore con la questione di Cirio. Tranquillo. Ricordo allora Propaganda Live stasera, però io ti volevo chiedere, la parola che ti volevo citare era Zaniolo. Ora io lo so che... Vabbè, allora, ma che telefonata è? Accanimento. Ma nel senso io ti giuro che quando è successo Zaniolo ho detto chissà Zoro. Cioè ho pensato chissà Zoro. Essere, ora al di là del fatto che questo sia vero o meno, giuro da molti amici, conoscenti così, con la Roma è una cosa che comunque mi fa piacere. E con le sfighe della Roma poi soprattutto, perché poi soprattutto di questo parliamo, di certo non tifo né per il Real Madrid né per il Barcellona, quindi diciamo sono sicuramente più le sofferenze che le gioie. Ci vorrebbe una sagoma gigante di Zaniolo, ci vorrebbe stasera. È vero, questo è vero e vedremo, insomma, adesso abbiamo una produzione delle sagome, non è meno semplice di quel che sembra. Però è la cosa più impegnativa del programma, sì, forse. Sì, è una parte impegnativa comunque, di tutto, perché c'è un esercito di sagome, poi alla fine dell'anno scorso c'è stata anche una specie di razzia, a un certo punto alcune sono, cioè, per carità, nulla di tutto lecito, però sì, l'abbiamo rifatte alcune, insomma. E Zaniolo è... come si dice in questi casi, uno dei più grandi talenti del calcio, dopodiché la sfiga si abbatte sui talenti con una precisione rara. Lo aspettiamo, come si dice in questi casi. Aspettiamo, dai, come si dice a teatro, tanta di quella, tanta merda, insomma, si dice. Va bene, grazie la stagione, grazie a Diego Bianchi, grazie a Zoro per essere stato qui nel giorno in cui riparte Propaganda Live sulla 7, non l'ho detto, ma insomma. Caro Leonardo, anche noi potremmo fare perché sfida Luchetti, un bel sagomato di Leonardo Manera, perché io quando lui non c'è, e spesso non c'è, mi sento un po' solo, abbandonato, sì. Un bel sagomato, anche se in radio non si vede, chi se ne frega. Io una volta, anni fa, avevo registrato una puntata zero dove avevo messo i manichini, ricordo, seduti in platea. Al posto del pubblico? C'era il pubblico, ma c'erano anche i manichini, avevo messo entrambi. Cioè, eri andato a fare razzia in qualche negozio. Quando ti vedevano il percorso Buenos Aires correre con dei manichini sotto braccio, adesso ne metterò inseguito qualcuno dalle forze dell'ordine. Sì, adesso pensavo di metterne qualcuno anche seduto a casa mia, uno sul divano, uno nel letto. Questo è proprio il passo, l'ultimo passo della mestizia. E perché poi ci inizi a parlare. Sì, ma quello già lo faccio anche con gli oggetti. Fai come parlo come col dentifricio, parlo un po' con tutti gli oggetti di casa mia. Io, come ci raccontavi Castaway con la palla. Io sono un animista, penso che tutti gli oggetti mi comunichino qualcosa, quindi parlo con loro normalmente. Va bene. Per esempio questo microfono in questo momento cosa ti sta comunicando? Mi sta comunicando stanchezza. È lì stanchezza, un po' piegato, dice, ma sono sempre qui chiuso qui dentro. Quella cuffia lì? Quale? Non la vedo. Quella là. Abbandono, solitudine, vedi che è lì da sola, lontana anche da quelle due cuffie che invece sono insieme. Invece l'alpino come oggetto cosa ti comunica? Voglia di cambiare vita. Va bene, dai. Traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Qua 9:48 minuti. Allora, caro Leonardo, ti vorrei chiedere, sei pronto lunedì per la scuola? Ma io in realtà sono due giorni che mio figlio va a scuola, Mattia, quindi un pochino sono già entrato. Non ci sono ancora stati casi sospetti? No, Cribbio. Incrocio le dita, ieri era il primo giorno, oggi è il secondo. Settimana prossima mio figlio comincia la scuola e comincia anche gli allenamenti di calcio, quindi immagino che insomma. Mattia ha già iniziato gli allenamenti di basket. Non ci sono casi sospetti? No, anche lì non ci sono casi sospetti. Però secondo me manca poco. Lascia manca tempo poco al primo caso sospetto. Sì, certo. In diverse scuole è così. Comunque, vai Leo. Allora, ieri in prima pagina sul Corriere della Sera, ma immagino anche in altri giornali, campeggiava l'immagine della turista che in Francia è stata mandata via dal Museo d'Orsay per il vestito scollato che faceva intravedere le sue generose forme e, perché no, anche un corpo apprezzabile. Ne parleremo anche noi, se non sbaglio, qui come dopo. Come no? ed è stata mandata via. Sbagliato, io non l'avrei mandata via, anzi le avrei anche dato il biglietto omaggio, e non per quello che probabilmente tutti voi, anche qui Alessandro Milan, state pensando, cioè ecco Manera, il solito porco che vuole guardare le ragazze. Sì, no, l'hai pensato, no, hai guardato l'alpino, sorridevi, dice quel vecchio porco di Manera che ancora vuole vedere il seno, le gambe, eccetera. Vabbè, a parte questa idea che c'è di me come se fossi un maiale vecchio, non l'ho mai pensato. Io non l'avrei cacciata e l'avrei gratificata invece con un biglietto omaggio come simbolo dei nostri tempi. Tempi dove tutti noi cerchiamo di avere attenzione al corpo, andiamo in palestra oppure a correre furiosamente, oppure ancora a sfiancarci in piscina, pur di avere, quando finalmente arriva l'estate, la possibilità di mostrare per le donne un corpo tonico e sinuoso e per gli uomini qualche muscoletto sulla pancia in nome del quale slacciare le camicie fino all'ombelico con dote annessa di catenazze intorno al collo. Per non parlare di come, rispetto solo a qualche anno fa, è cambiata l'alimentazione, che invece di gratificare il palato si sacrifica in nome della bilancia. Quando ero bambino la mia colazione era una tazza di latte e poi pane, burro e marmellata. Quindi pane, carboidrati, burro, grassi animali e marmellata, zuccheri. 5 fette. Appena alzato per la pesantezza volevo tornare a letto. Per merenda poi pane, burro e marmellata, me la preparava mia madre. E poi di sera, prima di andare a letto, se voglio uno spuntino, pane, burro e zucchero, così tanto per cambiare. Poi a pranzo uova fritte nel burro, per cena cotolette fritte nel burro. Una volta da bambino mi hanno fatto l'esame del sangue, avevo il sangue del gruppo B, gruppo burro. Oggi tutta l'alimentazione è cambiata, il latte intero non si usa quasi più, forse non ci sono più mucche intere che fanno il latte intero, però ci sono molte mucche di soia che fanno il latte di soia, mucche di riso che fanno il latte di riso. Se una mucca vede quel latte non fa mufa, ma... E anche il pane non si usa più come prima, c'è chi a colazione e anche a pranzo al posto del pane mangia le gallette dietetiche. Le gallette dietetiche mettono un po' di tristezza, secondo me le gallette non piacciono neanche ai galli. Le gallette le ha inventate qualcuno che aveva perso le papille gustative. Ma non si usano più neanche i biscotti normali, però ci sono biscotti senza glutine, biscotti senza latte, biscotti senza uova. Io ho comprato dei biscotti, sono andato a vedere gli ingredienti, c'era scritto ingredienti, niente. Ci sono in vendita dei sani biscotti di cartone, che sanno di cartone, non tutti uguali, ci sono quelli di cartone pressato, cartone ondulato, ma pur sempre di cartone. Infatti io a volte mi confondo, invece di mangiare il biscotto mangio il cartone della confezione e non sento differenza, anzi mi piace quasi più il cartone della confezione rispetto al biscotto. Sacrifici poi che si fanno in palestra tutto l'anno e in cucina tutta la vita, per la salute, ma soprattutto per avere un bel corpo da mostrare ovunque. E allora gratifichiamo chi conosce bene anche i riti del nostro tempo e omaggiamo con grandi biglietti omaggio chi, anche nei luoghi di cultura, ha ormai capito che il selfie al museo ha sicuramente più like se è accompagnato da un bel corpo tonico e, perché no, anche da una scollatura croccante e generosa. E ne parleremo, come dici tu... giustamente nella seconda ora di Uno Nessuno 100.000. Ecco, voglio tornare su questa cosa della scuola, e mi scrive anche il mitico Umberto Brindani, direttore di Oggi, dice guarda, anche loro effettivamente sono occupati di questo tema, leggo questo articolo, non si può neanche più prestare la gomma effettivamente. Ma ragazzi, e non è come qualcuno ieri mi ha scritto una mail dal mondo della scuola dicendo noi stiamo impazzendo con le regole. Infatti io vi capisco, cioè, e sono solidale, empaticamente solidale con la follia delle regole che vi impongono solo all'interno dei plessi scolastici. Voi mi dovete spiegare, cari ascoltatori, che razio c'è nel fatto che se vai al ristorante e chiedi una posata, arriva il cameriere, ti mette la posata con la mano e tu prendi la posata, mentre a scuola è vietato passarsi la matita, è vietato passarsi la gomma, le merende e la palla, giustamente ci dice anche Elisabetta Fusconi, sì. Perché è vietato lo sport di contatto a scuola, tipo giocare basket e calcio, se mio figlio il giorno prima ha fatto gli allenamenti di basket con la sua squadra? Prima... Che razio c'è? Ricordi l'ordinanza della regione Abruzzo quando si cominciò a giocare a calcetto? Si diceva che si poteva togliere la palla agli avversari, ma non tramite contrasti. Bisogna cedere la palla con benevolenza all'avversario. Con l'educazione. È lo sport delle sardine diventerà, insomma, così. Cioè, te non devi mica andare con aggressività a prendere la palla, devi dire scusa, te mi dai la palla che vorrei provare a fare un gol? un goal. Vabbè, c'è Maurizio da Vicenza. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Eccoci. Volevo solo segnalare un'altra grande incongruenza. Sì. Noi nei ristoranti, nei bar, siamo obbligati a servire l'olio, l'aceto, il sale, il pepe. Sì. Nelle bustine monouso. Però lei mi scusi Maurizio, qua, prende la bustina monouso con le mani, la dà al cliente che la prende con le mani. No, al cliente se la prende direttamente abbiamo dei dispensatori, ma questo è il minimo. All'inizio noi non potevamo mettere i giornali, perché i giornali sono portatori di virus, di sporco, di tutto. Sì, sì, è vero. Però, cosa strana, la lobby dei giornali si è imposta perché si perde vendita di milioni di copie. Sì. I giornali sono autorizzati adesso. Sono autorizzati, allora, non sono obbligatori però. Ma sono autorizzati. Beh sì, certo. E lei non sa che in un bar, se non hai i giornali, la gente non entra. Il 50% dei clienti. È vero. Lei dice la lobby dei giornali. Bello. La lobby dei giornali, bello. Perché i giornali prendevano milioni di copie al giorno. Ragazzi, non è che stiamo dicendo una cosa che non è vera. È la lobby dei giornali. È innegabile che uno entra in un bar e dice: dov'è la Gazzetta? No, entra in un bar e dice così, no? Tu Leonardo... Sì, io ho l'abitudine di sfogliare il giornale al bar. Quindi lei dice, caro Maurizio, che insomma prima non si potevano, appena invece hanno capito che perdevano copie, insomma si è imposta questa cosa. Vabbè, avranno fatto richiesta e l'hanno ottenuta. Comunque sì, è una follia, esatto. Chiedi a uno, al cartolaio, vorrei un... Ecco, entri dal cartolaio. Ieri l'ho fatto, ho comprato 10 quaderni. Ha preso 10 quaderni, me li ha dati, io ho preso i soldi con le mani, glieli ho passati, lui ha preso e ho pagato. A scuola è vietato passarsi i quaderni. Il cartaceo? A scuola è vietato. Il cartaceo? Sì, certo. È vietato questo gesto. Questo gesto è vietato a scuola ed è consentito in cartoleria. Guarda che siamo un paese bizzarro. Bisogna rinunciare a capire, la ratio non c'è e quindi anch'io ormai ho rinunciato perché ho capito che c'è questa follia collettiva. Leonardo è così, quando non sa cosa fare dice no, basta, rinuncio, andiamo al giornale, rinuncio, sto zitto, rinuncio, sto zitto, rinuncio. Come ti diceva tua mamma, come ti dice tua mamma? No, mia madre non me lo dice più perché non c'è più, è difficile che me lo dica se non in sogno. Ogni tanto in sogno mi dice, apparmi, c'è Leo, rinuncia, così, solo in sogno, a prescindere. Volevo dire tuo padre, dai, insomma, rinuncia, e tu? Applichi questa. Io rinuncio in questo caso a capire la ratio che non c'è. Non c'è. Quindi giornale radio, dai, rinunciamo. Giornale. Il segnale orario vi è offerto da GS Risarcimento Danni.it, la forza di cui hai bisogno. Contenti gli insegnanti, pur fra mille preoccupazioni. Bellissimo. Cioè, devo dire, rivederli ho detto, ah, meno male, allora la scuola ha un senso. Contenti gli studenti, anche se seduti al banco con la mascherina. Sicuramente qualcosa di diverso, ma un'emozione rivedere i miei compagni. La didattica a distanza, quello che non ci ha permesso era lo stare insieme fisicamente. Molto più bello, secondo me, ritornare in classe rispetto ovviamente alla didattica a distanza, però, vabbè, è stato appunto necessario. E contenti anche i dirigenti scolastici, alle prese con una sfida senza precedenti. Sì, per me è stato bello rivederli, siamo contenti perché la scuola senza studenti è una carcassa vuota, è assoluta, abbastanza inutile. Radio Day, lunedì 14 settembre, nei GR e nei programmi le voci dalle regioni in cui suonerà la campanella. Una ripartenza con tante incertezze, ma che rappresenta anche un'opportunità per fondare una nuova scuola. Appuntamento il 14 settembre su Radio 24. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, questa è cos'è? Abbiamo introdotto la musica country? La musica country, no. Sembrava un inizio un po' country, bello. 10:08, caro Leonardo Manera. È venerdì oggi, l'ultimo giorno della settimana. Bene. L'hai detto con una grande È venerdì! Urliamolo tutti insieme, Milan! è venerdì! Tra l'altro, ieri un ascoltatore mi ha scritto che tu saresti impegnato, secondo me, in quel di 100. Esatto, vorrei... questa sera a 100 sono. Ah, questa sera a 100, perfetto. Sì. Vogliamo dare dei dettagli un po' più precisi? Alle ore 21. 100 che è in provincia di Ferrara. Sì, sì. Alle ore 21, dove? In piazza. In piazza? Quale piazza? Ma non ci saranno tante piazze a 100. Le 100 piazze di 100, no, saranno delle piazze, non lo so, guarda, dopo guardo. Ma ci vai? Vado, tra l'altro credo ci voglia un bel treno. Sono già stato una volta a 100 quando c'era il carnevale di 100, che è una manifestazione conosciuta. Sì, e... sì, ma non ci urlare nel manico. A che ora? Guarda che controllo, allora, stai controllando sul sito leonardomanera.it. Sono in piazza. Sarebbe semplice se uno... Piazza della Rocca a 100, ore 21. Ah, è azzeccato l'orario. È azzeccato, sì, ora 21 è... Stasera, zio Bonetti, andate e con distanziamento fisico godetevi lo spettacolo. C'è intanto Eva che ci chiama da Bolzano. Buongiorno Eva. Buongiorno. Vai. Io mi riferisco ai problemi della scuola. Non si passa la merenda, non si passa la gomma, non si passa la matita. Sì. Adesso che andiamo a votare con questa matita copiativa, me bella, la porto da casa. Bella domanda, non lo so. La cabina elettorale viene disinfettata, pulita, sterilizzata, sanificata. A ogni votazione, chi lo sa, non credo che succederà. Non credo nemmeno io, e non posso neanche portarmi la matita. Perché devo usare obbligatoriamente quello che mi danno. Come allora facciamo? Andrò a votare con i guanti. Le faranno... Va bene, vado a votare con i guanti. Sì, poi le faranno sanificare le mani in entrata e in uscita, sì, presumibilmente. Esatto, molto probabilmente se uno sanifica le mani, la matita poi a quel punto... insomma. Però effettivamente, cara Eva, è molto interessante. Cosa succederà alla matita? Niente, poi posso dire io niente. Verrà data la matita perché la follia è quello, è il divieto di passarsela a scuola. Secondo me, questa è la follia. Col virus bisogna comportarsi come, cioè, col metadone. Sono politiche di riduzione del danno. Ecco, io la vedo così. Penso di aver risolto tutte le questioni, ragazzi, con questa mia affermazione lapidaria. Perché, ma perché non vai in un talk show, ti metti lì a fianco a Crisanti, a fianco a Zangrillo, a fianco a Bassetti e dici la tua invece? Io credo che si debba... Cos'è questa storia del metadone? Sì, sì, noi ci stiamo comportando come si fa col metadone, sono tutte politiche di riduzione del danno, che comunque resta, c'è, perché la vita normale c'è, però in certi contesti si dice, vabbè, comportiamoci come si fa col metadone rispetto all'eroina. Punto. Riduzione del danno. Punto. Questa non, è non c'è bisogno di aggiungere no, altro. Basta. Leo risolve facile. Ecco, sarà a 100 alla Rocca, scrive un'ascoltatrice, un ascoltatore. Sì, infatti, sarà a 100 alla Rocca. Sì, esatto. Esatto, la piazza della Rocca, non so, questa sera, ore 20, piazza, allora, questa ascoltatrice sarà di 100, quindi se dice alla Rocca, loro non stare a sottilizzare, si dirà così da loro, parti, sì, alla loro Rocca. La chiameranno così, piazza della Rocca a 100, prove ore 19, spettacolo ore 21, viaggio autonomo, rientro in serata. Cena a carico di chi? Non c'è scritto. Questa, scusa, questa cena è la tua a carico... gente che si dice. È la scheda di convocazione. Viaggio? Com'è che è? Ah no, è previsto il pernottamento, ottimo. È bellissima questa cosa della scheda di convocazione. Spiega bene cos'è che ti è arrivato. Città 100. 100. Live, piazza della Rocca a 100. Programma, prove ore 19, spettacolo ore 21. Referente, pernottamento previsto, quindi previsto? Dormo lì, dormo ma a 100. Cena non c'è scritto, di solito è a carico dell'organizzatore. Patrick, la cena è a carico tuo. Comunque, ascoltatore ci scrive: sono di 100, si dice piazza con la Rocca. Vabbè ragazzi, siete complicati, mettetevi d'accordo però. Comunque, caro ascoltatore, se sei di 100 stasera, paga il biglietto e presentati alle 21. Sarà ingresso gratuito sicuramente. Vabbè, non pagare il biglietto e presentati alle 21 per Leonardo Manera in piazza con la Rocca. Ecco, non sottilizzare e presentati. Speriamo. Voglio che abbiamo messo una foto della tua presenza, che lunedì deve essere esibita come una giustificazione a scuola. Spero di essere in un hotel gradevole, perché la cosa caratterizzante 100. Per capire se la serata è gradevole o no, al di là di come va lo spettacolo, è l'hotel. Perché se tu poi viaggi da solo, arrivi da solo, fai lo spettacolo, poi da solo vai in un hotel anche brutto, ti viene veramente una grande amarezza. Grande amarezza. Mm. Quindi, caro Patrick, ricordo, Patrick, Patrick, dovresti Patrick. Elevare di un 3-4 stelle il ricordo il una serata previsto. Ricordo una serata che feci anni fa a San Benedetto del Tronto. La serata, vabbè, normale, ma poi mi misero a dormire in una camera d'albergo minuscola, veramente dove entrava praticamente solo il lettino singolo. Io ero lì da solo in questa camera gialla. Perché abituale a quando avevi il monolocale a Milano. Esatto. Primo... Ero da solo in questa camera minuscola col letto singolo, camera gialla, e accanto a me sentivo nella camera accanto il rumore di un uomo e una donna che si accoppiavano selvaggiamente. Ma scusa, ma gialla perché la camera? Perché sporca? Era, no, era per dare un po' di allegria a quella camera, alla quale però non si poteva dare allegria neanche con più sgargiante dai c'era colori. C'era una vecchia camera molto grande, hanno ricavato uno stanzino da dove quei due... Sì, loro si davano da fare, io lì da solo nel mio lettino singolo, in quella cameretta singola. Tu avevi goduto dei benefici dell'artista apprezzato e applaudito e ben pagato. Quindi. Paola da Genova, buongiorno Paola. Buongiorno, sì. Io volevo fare un intervento relativamente alle sue affermazioni che i bambini possono far tutto, sì. Però poi a scuola non si possono scambiare la matita, la gomma, eccetera. Volevo solo dire che i bambini sono meravigliosi, ma si mettono in bocca tutto. È vero, sì. La matita, la fase mangiano, orale, la fase orale. La gomma, sì. Se la mangiano, le mani in bocca, nei piedi, sì, alternativamente, sì. Perché è giusto così. Perché diciamo, i bambini sono piccoli, così, piccoli, però... piccoli, quelli da, tipo dalle medie al liceo, non è che si mettono le mani in bocca, io i no, piedi, i piedi. Io no, ecco. Ma i piccoli, io parlo della scuola, sì, del materna ed elementare, sono meravigliosi, ma sono una fonte di contagio pazzesca. Certo. Proprio per questa loro naturalità espressa in queste modalità che sono proprio il toccarsi continuamente, il mettere in bocca tutto, tutto legittimo. Allora, effettivamente, secondo me, per me sarà un problema, secondo me, enorme quello della scuola, soprattutto, sì, della scuola dei piccoli, per questa ragione, perché non sono contenibili, ma non, certo, perché ma non sono sa cosa, Paola? Perché sono così, perché sono, va bene, bambini. Perché... Ma infatti, Paola, il problema è questo. Cioè, io trovo bizzarro che a scuola dicano vietato scambiarsi la matita, ma quando escono da scuola si mettono in bocca la matita lo stesso. Se studiano insieme, si mettono in bocca, certo, la matita e la passano all'amichetto. Secondo, cioè, me... L'unica differenza è che così la scuola dice non è di nostra competenza quello che è successo, noi abbiamo rispettato le regole. Ma non credo, guardi, io non credo che, cioè, mi permetti, io ho vissuto nella scuola a tutti i livelli, cioè l'ho percorsa dalle elementari fino all'università come docente, però non credo che sia questa la ragione, è cercare di contenere, ecco, cercare di contenere, perché Paola, i bambini... io, cioè, contenere, se uno per sei ore è ligio e per le altre otto si mette la matita in bocca, per il virus è lo stesso. Lo so. È lo stesso. Cioè, lo so. Basta lo so, però magari un bambino va a casa, ha i fratellini, sta in casa con i fratellini, gioca con i fratellini e hanno questa contaminazione familiare, se così si può dire. E non inviterà un amico, un compagnetto a scuola, sì, scuola, certo, a casa. Sì, ma se poi si può dire, bambini, non vi mettete le matite in bocca, cioè, i bambini poi capiscono, certo, anche, certo, perché i bambini capiscono più di quello che noi pensiamo. Sì, certo, ma non è solo la matita, è tutto il resto della vita che porta inevitabilmente, sì, a un contatto con gli altri. Io comunque credo che, ripeto, ha ragione Gramellini, io quello che dico da giorni, cioè che su questo, ma non le persone, gli operatori del mondo della scuola, insegnanti, ATA, che fanno un lavoro straordinario, difficile, l'istituzione scuola, cioè le istituzioni fanno ciò solo per poter dire non era di mia competenza, noi e siamo stati ligi alla norma. L'abbiamo detto anche noi, l'Italia prima anche di Gramellini, certo, un mese infatti, che lo diciamo. Infatti ho detto oggi, ho detto, sembra che Gramellini mi sia entrato nella mente e con la penna sicuramente migliore della mia ha messo i miei pensieri sulla prima del Corriere, però io la penso così, ma lei no, e siamo qua, cara Paola, a confrontarci proprio su questo, questo è il bello. Traffico 1, nessuno, 100 Milan. Comunque nella scuola si sono fatte le regole, corrette, secondo me. E se poi fuori non si applicano, è questo il problema, non che non dovevano farli a scuola perché fuori non si applicano. Ma non si applicano, cari ascoltatore, perché lei ha visto che il governo ha messo il divieto del barista di prendere in mano i soldi da lei direttamente? No. Quindi è questo. Perché non è stato fatto uno dei 800.000 DPCM fatti? Perché in uno di questi non c'è scritto è vietato passare il denaro tra due persone? Perché evidentemente non lo ritengono necessario. Allora perché è vietato passarsi la gomma tra due compagni? Ecco, questo. Mettere tutte regole così anche fuori vorrebbe dire sospendere completamente la vita, certo. Che già è. Senti altri WhatsApp. Ciao Milan, senti, ma il commento alla scuola ce n'è solo uno da fare. Ti ricordi i 3-3, quei tre comici napoletani che ad ogni cosa dicevano poi su, commentavano così? Sì. A me? Ma guarda, proprio una stronzata. Milan, perché compri i quaderni col contante? Evasore! Manera a Pieve di Cento, subito lì vicino al centro, c'è un locale di lap dance. Vabbè. A me, ma pare una struzza! Sì, questo però era legato a prima. Vabbè. Io ci ho lavorato nei locali di lap dance, no, quindi scusate, non mi attirano, sì, no, più. Scusa, puoi avvisare tutto, puoi attivare la procedura d'urgenza. Ha tirato fuori un fazzoletto e si sta soffiando il naso. C'è qualcosa. No, scusa. Me lo tengo così, così. Sanifichiamo. Sanificate lo studio, sì. No, non lo so. È qua che si soffia il naso. Si è messo un fazzoletto nel naso. Va bene, adesso torniamo. Facciamo un passo indietro. Oggi ha avuto il pregio questa trasmissione di frigiarsi anche del monologo di Leonardo Manera su questo tema. E cioè la signora molto procace, bisogna dire, che in Francia si è presentata al museo, al Quai d'Orsay, con una scollatura molto ampia, potete immaginare. Molto. No, era un po' ampia. Lasciava intravedere, questo come lo dire, dici tu. Sì. Moltissimo, e per questo motivo è stata allontanata. Quindi in un luogo di cultura, signora, cara signora, non si viene vestiti così, con tutto esibito al vento. Allora, noi abbiamo chiamato una donna che con la cultura e nella cultura vive da sempre, è stata anche sottosegretario, Ilaria Borletti Buitoni. Buongiorno e grazie di essere qui. Ma sa che questa notizia è stata la più dibattuta qui in redazione, la nostra redazione, di Uno Nessuno 100.000, e contrariamente a quanto lei potrebbe pensare, erano le donne, soprattutto le più accanite, a sostenere posizioni tra bacchettonismo e invece giusta decisione del museo di respingere questa donna. Lei personalmente che ne pensa? Ma guardi, io parlerei di questa bella signora e direi che la sua provocazione, che è anche un po', come dire, infantile, ha evidentemente spostato l'attenzione dal museo a se stessa, che era quello che probabilmente voleva ottenere. Quindi la mia opposizione non è tanto per un fatto estetico, perché sono d'accordo con Luca Beatrice, non è detto che qualcuno in shorts e canottiera sia più attraente, ma è contro l'idea di strumentalizzare una visita per dare rilievo a se stessi, perché questo mi pare che non sia lo scopo di una visita a un museo o comunque del fatto che uno entri in un luogo della cultura. Quindi non discuto tanto sull'atteggiamento assunto dal museo perché lei aveva una scollatura molto accentuata, ma discuto sul fatto che si permetta a chiunque di farsi pubblicità in un luogo della cultura che ha un'alta vocazione. Non c'è dubbio che se fosse stata respinta e non lo avesse comunicato a nessuno, non sarebbe successo niente. Ha approfittato di questa situazione per così finire un po' sui giornali. Esattamente. Su questo. Però nell'era della... come dire, della mediatizzazione ci sta questo, no? I dieci minuti di gloria non si negano a nessuno. Quindi... Sì, però voglio dire, allora perché uno non entra in un museo e non butta un vasetto di vernice sul pavimento davanti alla Gioconda? Voglio dire, io credo che chiunque si presenti, oltretutto mi pare anche una bellissima donna, chiunque si presenti in quella tenuta all'interno di un museo attira l'attenzione su di sé, quindi che ci fosse, come dire, l'intenzione di creare un circolo mediatico intorno a lei nel mondo di oggi mi pare prevedibile, ed è questo che io un po' contesto, perché credo che se uno accetta questo principio allora vale qualunque cosa. Però paradossalmente è stato utile anche al museo come forma di pubblicità. Ma sa, anche questo bisogna a un certo punto capirsi, perché la pubblicità uno la può ottenere in infiniti modi. Penso che ci siano delle situazioni, delle linee, delle che sono quelle anche di aprire il museo a delle persone, come è successo con gli Uffizi, che rappresentano un pubblico completamente diverso. Dove però c'è stata la polemica, perché Chiara Ferragni, quando ha detto sono agli Uffizi, e sono aumentati notevolmente nei giorni successivi i visitatori, e c'è stato il dibattito a dire... Sì, però vede, Chiara Ferragni agli Uffizi ha aperto certamente l'idea degli Uffizi a un pubblico amplissimo, diciamo che le ha messo a disposizione il suo enorme consenso sui social network per gli Uffizi. Qui è diverso, questa signora ha voluto utilizzare il Museo d'Orsay per sé, e questo mi pare, come dire, che vada preso con una certa attenzione, perché se no mi chiedo quale potrebbe essere la prossima provocazione. Diciamo che lei, mettiamola così, se questa donna secondo lei è andata lì per in qualche modo anche provocare una possibile reazione di allontanamento, per poi dire vedete mi hanno allontanato, cioè sì, effettivamente allora se è questa la ratio vuol dire guardi, che è stata tutta una manovra di marketing. Un'unica giustificazione, mi permetto di dire, se la sua giustificazione fosse quella di dire basta bruttezza, come appunto Luca Beatrice ha sottolineato, basta folle in short e canottiera che entrano ovunque, riportiamo la bellezza anche delle persone dentro i musei. Ecco, se ci fosse stata questa provocazione potrei al limite averlo capito, ma mi pare che non siamo neanche arrivati a fare discorso così articolato, quindi proprio si tratta d'altra parte pubblica. Una parte di arte moderna, anzi soprattutto contemporanea, è provocazione, quindi la si può vedere come una sorta di performance. No, se c'è questo aspetto di provocazione, già questa bella signora, come dire, mi è più simpatica. Se invece, come io credo, è stato solo un gesto pro domo suo, perdere. Va bene, noi la ringraziamo Ilaria Borletti Buitoni, grazie. So che adesso grazie. È presidente onorario di Amref Italia, è vero? No? Sì. Ma insomma è sempre molto, molto attiva in tanti campi del sociale, del culturale e anche del politico. Grazie per essere stata con noi, anche ex sottosegretario alla cultura. E vabbè, capisci, la verità è che devi dire che accanimento qui ieri in redazione e il ramo svizzero che rivendicava una certa sobrietà, il ramo sfida Luchetti che invocava il bacchettonismo. È come quando vai al casinò. Invocava, allora, diciamo, cioè se la prendeva col bacchettonismo. Sai che al casinò, nelle sale dove si gioca la roulette, eccetera, devi essere in giacca e cravatta, almeno in giacca. Invece sotto, dove si gioca le slot, puoi andare anche in canottiera. Però il bello dell'andare al casinò in quelle sale è proprio mettersi la giacca e la cravatta eleganti, perché tu perdi, ma perdi elegantemente. Se invece trovi Mauro Meazza, lui truffa. Lui vince perché non so se Mauro Meazza è un frequentatore di casinò. Oh! Mai? Dice no, mai, mai stato il casino. Dice, non dice credo. Mai, ma perché tu credi alla parola di Mauro Meazza? Non lo so. Cioè, adesso dopo anni e anni che lo conosci, guardi Mauro Meazza che dice no, io no. Ah, ha detto di no. Allora tu ti fidi di Mauro Meazza? Sai che c'è la fila di gente sotto i ponti che si è fidata di Mauro Meazza? Io lo vedo invece come un giocatore compulsivo lì alle slot. Din din din din din. Ancora. Din din din din din. C'ha gli Meazza, occhi a forma di ciliegia, sai quando escono le ciliegie? Ciliegie, ciliegie. Una, ricordo che una volta sono stato un po' di tempo fa a San Vincent e c'era proprio la sala Meazza. Stupendo. Io devo raccontare anche io una cosa del casinò. A 20 anni, avevo 20 anni, era il 91, però io sono nato a dicembre, quindi compio gli anni a dicembre, pur essendo del 70, avevo ancora 20 anni, era agosto, ero a Las Vegas e a Las Vegas vado a giocare al casinò ed è vietatissimo se non hai 21 anni, al che metto una monetina e sento toc toc. Mi giro, c'era uno di questi poliziotti e mi fa passport please. E io cercavo già con gli occhi terrorizzati i miei amici sparpagliati per a dire venite ad aiutarmi, do il passaporto al poliziotto temendo già di finire in manette e poi questo controlla il passaporto, fa ok, tutto a posto. E poi mi è venuto in mente che lui ha letto la data di nascita 5-12-70 all'americana, cioè 5 maggio 12 giorni. Per lui sono nato ero nato il 12 maggio e quindi essendo agosto avevo 21 anni. Invece io, essendo nato in Italia, è il 5 dicembre e ne avevo 20. Me la sono scampata per, posso dire, l'ignoranza di un poliziotto americano di Las Vegas che... Vabbè, sono qua, borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Mi chiamo Angela e abito a una decina di chilometri da Cento, in provincia di Bologna però. Volevo segnalare che il signor Bonetti Leonardo questa sera si esibirà, secondo almeno quanto c'è scritto nel volantino della Proloco della fiera, alle ore 21:30 in Piazza della Rocca. Siccome io ho perso per i noti motivi lo spettacolo a cui tenevo tantissimo a Busto Arsizio con Manera e Milan, magari mi accontenterò del solo Manera stasera. Sì, ecco, c'è questo dubbio 21. Signora, nel dubbio, si presenti per le 21, al limite aspetterà. No, io do ragione alla signora, comincerà alle 21:30 perché poi si slitta sempre. Quindi, se anch'io ho segnato 21, lo fanno sulla convocazione perché dicono così arriva un po' prima. Insomma, non sa neanche a che ora deve andare in scena. Magari alle 21, cosa, venga, signora. Per me è incredibile, incredibile raccontarla, veramente non ci crede nessuno, ma invece è così. Allora, sono le 10:38 di minuti. Io sono contento di riabbracciare virtualmente un nostro amico, se ci permette di utilizzare questa parola, abbiamo un po' conosciuto. Torna con noi Stefano Geller. Stefano, ciao, buongiorno. Ciao Alessandro, ciao Leonardo. Eccoci qua. Buongiorno a tutti. Ci eravamo lasciati prima dell'estate, è stata un'estate... brutta, innegabile, hai perso la mamma non c'è più, la mamma che ci avevi raccontato. Dopo un mese di ospedale, sì, purtroppo è andata a diritto di soffrire, diciamo, ecco. Non voglio vedere così, ecco, la situazione. Sì, perché Stefano abbiamo raccontato tante volte anche tu come tua mamma, insomma, visto che è una cosa familiare, hai una anche mia sorella, sì. Anche tua sorella, una grave forma di disabilità che ti tiene fermo in carrozzina, ma attraverso il tuo Facebook, la vita di Stefano Geller, io però vedo che raccogli sempre più affetto, sempre più vicinanza, sempre più amici anche, no? Ah sì, quello sì, infatti mi sta aiutando tanto la vicinanza di tutti, ogni giorno, ecco, di, con un saluto, con una parola, mi sono sempre vicini, ecco, gli amici di Facebook. Sì. Noi ci eravamo lasciati, voi se ricordate, insomma, il sogno di Stefano è quello di andare a New York, poi ovviamente c'è stato il coronavirus, ma finirà anche questa situazione, quindi prima o poi ce la faremo. Ci eravamo lasciati anche prima dell'estate con il tuo anche sogno di dire più concreto, più vicino, di dire andare un giorno al mare. Poi... Esatto, infatti volevo dirti, Alessandro, che proprio dopo l'ultima trasmissione, sì, l'ultimo intervento, mi hanno chiamato e mi hanno fatto una settimana al mare. È bellissimo. A Bignone. È bellissimo. È totalmente pagata dalla diocesi di Treviso. Mm-hmm. Ovviamente ad agosto non ho potuto andare, però mi hanno, ecco, riproposto e andrà lunedì 14. Ma è stupenda questa cosa. Esatto. Ma è meravigliosa, cioè lunedì 14 sì, vai una settimana al mare. A esatto. Ma che bello. A Stella Maris. Sì, sì, sì, ecco, ci hanno anche scritto, ci avevano scritto, esatto. Si erano proposti in tanti, devo dire, però sì, sì, sì. È bella questa cosa, allora possiamo dirlo, esatto, che insomma il 14 andrai una settimana al mare. Quindi... Tra l'altro sarai uno dei pochi che fa una delle cose che vengono sempre dette come le migliori, cioè il mese più bello per andare al mare è settembre, lo dicono tutti, sì, ma non ci va quasi nessuno, tu invece potrai verificare di persona che è così. Sì. Esatto, dopo una vita si ha dette... Rivedo il mare e faccio una bella vacanza. Ma ecco, che bello, anche perché ricordiamo, appunto, erano tanti anni e tu avevi questo sogno perché da tanti anni non rivedevi. Ah sì, è da vita, sì. E quindi volevo ringraziare anche per la trasmissione. Ma no, guarda, quello ci mancherebbe. Tanto adesso tu lo sai che dovrai farci da inviato a questo punto, cioè ti romperemo le balle in una maniera incredibile, cioè ti chiameremo, ci devi raccontare com'è il mare, com'è... mica pensi di cavartela così, insomma. Va bene. che bella questa cosa. No, siamo contentissimi di questa cosa, almeno in un momento in cui purtroppo invece hai dovuto passare l'ennesima Così la vita purtroppo ci mette sempre alla prova. Eh sì. Caro Stefano, mi raccomando, adesso, okay, ma niente, dobbiamo attrezzarci, dobbiamo capire. Vuoi andare anche tu a Bibione? No, non per venire a Bibione, ma dovrai. Adesso ti lasceremo tranquillo, però ogni tanto qualche emozione ce la devi trasferire qui, anche se sei in vacanza, cioè non ti dimenticare di noi. Va bene. No, assolutamente. Un grande abbraccio, caro Stefano. Grazie, Stefano Geller, lo seguite se volete su Facebook, è La vita di Stefano Geller. Ci sono... Sarebbe bella una cartolina a ricevere qui, perché le cartoline, sì, non si usano più. Saluti da Bibione. È vero. Quelle belle cartoline dove c'erano immagini di vario tipo. Sì, certo. Tu quali ricevevi? Quelle classiche? C'erano gli amici burloni che mandavano le classiche con le donne, no? Come dire, un po' tipo donne da museo Quai d'Orsay. Esatto. Così, ormai è diventata. Poi c'erano quelle istituzionali, della zia, c'è un panorama. Il panorama, poi c'erano quelle, diciamo, sentimentali al tramonto. Queste erano le tre tipologie. Ecco. Panorama classico di giorno, donna discinta, tramonto. Gli amici mandavano la donna discinta facendo immaginare che si stavano divertendo tantissimo, cosa che non era vera. Le persone così di media familiarità mandavano il panorama classico e invece quelle che avevano degli interessi sentimentali mandavano il tramonto. Io invece con un mio compagno del liceo facevamo questa gara a mandare la cartolina messa peggio, cioè trattata peggio, stropicciata, per vedere se il postino l'avrebbe portata comunque, cioè se le Poste italiane l'avrebbero considerata comunque. Io una volta l'avevo piegata tutta, stropicciata, messa nel profumo, sporcata, e incredibilmente è arrivata un cartoccio di roba, una roba inenarrabile, una roba intoccabile. E invece è arrivata, ma che bello, mi hai ricordato l'epoca in cui si partiva per il mare e faceva l'elenco delle persone a cui mandare cartoline. Alla zia l'ho mandata, allo zio l'ho mandata. Io ne compravo sempre tante e poi ne spedivo poche. e mi avanzavano sempre le cartoline non scritte. Infatti, quando feci la prima mia edizione di Zelig, scrissi le battute sulle cartoline perché ne avevo tante avanzate. E poi dicevo: così, se non piace la battuta, piace la cartolina. Perché avevo a casa decine di cartoline inutilizzate. E va bene, cari ascoltatori, con questo momento revival, ma sono davvero felice e soddisfatto per Stefano Geller, dai. L'ho sentito quando ha parlato di questa settimana al mare, hai sentito che la voce si è un po' rinfrancata e è vero che è un luogo comune, tutti dicono sempre vai in vacanza a settembre, vai al mare a settembre, che è la cosa più bella, poi chissà perché ci vanno in pochissimi, perché dici il lavoro ti obbliga a riprendere. Tipo se hai figli che vanno a scuola, andare a settembre è bello, però viene buio molto prima e ti viene comunque un po' di amarezza quando sei lì, ecco, che arriva il buio alle 6. Ci deve essere sempre quel pizzico, quella ciliegina amara e rancida sulla torta. Io ricordo che il mio unico capodanno in Messico è stato anche è stato anche bello, ma il problema è che il 31 dicembre in Messico viene buio tipo alle 6, cioè c'è il sole, c'è caldo in tutti quei posti spesso, e poi arriva buio pesto in quei posti. Sì, e quindi c'è questa distonia, diciamo, tra il sole che c'è, il caldo, e però il fatto che venga buio così presto. Ti sembra di essere in una dimensione anomala, anche irreale, che ti fa ripensare a quando eri in Italia, con un po' di nostalgia che non ti rende mai piena la vacanza, che si conclude appunto con un briciolo di amarezza. Amici ascoltatori, allegria! Vai al traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. Allora, 10:47 minuti, visto che abbiamo parlato di cartoline, luoghi di vacanza, visto che è venerdì, è tornato da noi il signor Francesco Vagone con la sua straordinaria agenzia Viaggi. Cari amici di Radio 24, benvenuti nello spazio di Fagone Tour International, l'agenzia viaggi per i viaggiatori che non si accontentano delle solite mete. Un microfono particolare. Vista la situazione internazionale, consiglio di continuare a rimanere in Italia e sono qui per suggerirvi qualche altra destinazione da scoprire nella nostra bella penisola. A partire da Beronzi Superiore. Sempre quella. Sempre, noi siamo affezionati alle nostre località, non le abbandoniamo come dei pesci andati a male. Beronzi Superiore, una graziosa località senza tutte le attrazioni che offrono le grandi città, ma con lo stesso livello di inquinamento. Beronzi Superiore è un piccolo gioiello del nostro paese, ma non è ancora stata invasa dal turismo di massa. Chissà perché. È una delle poche destinazioni al mondo libere dal coronavirus, nonostante gli abitanti non vedano l'ora di fare un tampone, perché darebbe una svolta alle loro giornate, una botta di vita a Beronzi. Ma attenzione, Beronzi è anche una località molto frequentata dai VIP. Una volta a Beronzi si è fermato un celebre campione mondiale di ciclismo, ma poi si è rialzato dalla caduta ed è subito ripartito. A Beronzi gusterete una vacanza piacevole, come quando sei sotto la doccia e l'acqua diventa gelata di colpo, una sferzata di energia. E allora perché non cogliere subito questa opportunità? Partiamo subito dai grandi vantaggi dedicati ai viaggiatori del Vagone Tour International. Chi sceglie di visitare Beronzi in questa stagione potrà approfittare della esclusiva promozione insieme a Beronzi. È una romantica gara di coppia. Se lei, la donna, riesce a resistere tutta la vacanza senza dire a lui "te l'avevo detto", subito 3 euro omaggio da spendere negli esercizi locali. Non ce la si fa. Ma ora è arrivato il momento di scoprire le straordinarie attrazioni di Beronzi Superiore. La prima attrazione è Giacinto, l'uomo con il tic dell'occhiolino. Se un collega di Giacinto non vuole fare un lavoro, urla "Giacinto, ci pensi tu?" Così Giacinto fa l'occhiolino e lui va a casa prima. Nessuno vuole stare in coppia con Giacinto quando si gioca a briscola con i segni, perché non si capisce mai se Giacinto ha la briscola oppure no. Quando... Anche il gioco dell'assassino è complicato con gli... Il gioco dell'assassino è un gioco carte. Che non conosco. Il gioco dell'assassino, mai sentito nominare. Che devi fare l'occhiolino per uccidere le persone. Vabbè. Quando Giacinto va a fare la visita oculistica, legge sulla lavagna le prime due lettere e poi va in tilt. A carnevale Giacinto si è vestito da pirata, ma la benda sull'occhio continuava a spostarsi. Se deve mettere il collirio, se deve mettere il collirio, Giacinto prende un giorno di ferie. L'ultima volta che Giacinto ha fatto una passeggiata in centro ha preso 6 denunce per molestie. Ma a Beronzi Superiore le attrazioni sono moltissime. Per esempio l'uomo che fa le bolle di sapone col naso, l'equilibrista che soffre di vertigini e fa i suoi spettacoli camminando sulle righe dei parcheggi, l'ortopedico con la passione per la botanica che studia solo la pianta del piede e la campionessa di golf che riesce a sferruzzare un maglione in 10 minuti. E tutto questo perché le sorprese a Beronzi Superiore non finiscono mai. E allora prenotate subito la vostra vacanza con Fagone Tour International, the best agency tour in the world. Please visit Beronzi. Non ce l'abbiamo oggi il please visit Italy. Niente, quando serve non c'è. Beronzi è bella da visitare. L'unica volta che l'abbiamo messa non ha detto please visit Beronzi. Soprattutto a settembre, il mese ideale per le vostre vacanze. Venite quindi anche a settembre a Beronzi Superiore. Ricordiamo che Beronzi Inferiore sopra. Beronzi Superiore, c'è questa particolarità che la rende ancora più simpatica. Ma Beronzi Inferiore però non ci sono attrazioni. Non ci sono mai arrivato perché è sopra. È sopra, è troppo in quota. Vabbè. Senti che bella questa. Visit Italy. Vabbè. C'è Giulia da Livorno. Buongiorno Giulia, eccoci. Buongiorno. Vi ascoltavo mentre ero in auto e ho fatto una riflessione circa il problema appunto di questi ragazzi che torneranno a scuola e che chiaramente sarà difficile per loro scambiarsi le matite, le gomme, i libri, i quaderni. Però ecco, sarà proprio il compito degli insegnanti di educarli a non fare questo. Non è un problema, anzi è una sfida. Io trovo che tutti noi lavoratori che non siamo nell'ambito scolastico affrontiamo questo problema ogni giorno ormai, da chi è riuscito a lavorare dopo il lockdown. Sì. Dal 18 di maggio. Giulia, io lo ribadisco perché non riesco a farmi capire evidentemente dagli ascoltatori. Allora, sarà vietato scambiarsi la gomma o la merendina dentro la scuola, ma le autorità sanitarie non hanno vietato di scambiarsi la merendina a casa, no? E allora mi spiega qualcuno che ragionamento c'è dietro questo divieto di farlo a scuola, ma nessuno lo ha vietato di farlo a casa? È questa, Giulia, la contraddizione che io sottolineo e che porterà a fare impazzire, poveri loro, gli operatori della scuola, che dovranno far rispettare queste norme che invece fuori dalla scuola nessuno chiede di fare rispettare, ma non nessuno i genitori, nessuno, neanche i virologi, il comitato scientifico, i ministri, il governo, nessuno, cioè, capisce Giulia? Questo intendo. Sì, però diciamo che sta ad ognuno di noi non farlo. Ma se, cioè, perché, ecco, perché sta a non farlo? Se, cioè, per ora ci hanno detto tutto quello che è vietato fare e lo abbiamo rispettato e lo rispettiamo. Nessuno ha mai detto è vietato per due bambini scambiarsi una merenda. Nessuno. Cioè, se ci fosse stato un pericolo, perché allora a scuola sì? È questa è vero, non lo dice nessuno, però io penso che diciamo che non viene sancito con un famoso DPCM, però meno male, lo sappiamo. Ma insomma dicono lavatevi le mani, io se arriva un amico a casa gli faccio lavare le mani, se mettete la mascherina, tenete il distanziamento, no, le tre regole, ma dopodiché se un amico è a casa mia gli dico vuoi la merenda, e gli prendo il pane con le mani e gli metto la Nutella. Cioè non è che questo a scuola non si può fare, a casa mia o a casa sua o a casa di maniera sì. È questo che mi fa impazzire, ecco. Però grazie Giulia comunque da Livorno per essere stata qui. Vedremo. Guarda, così entra in un rigoroso silenzio. Quando il no, suo io silenzio... sai già cosa penso, insomma. Ma non voglio essere accusato ulteriormente e quindi... sei un po' negazionista. No, io ripeto, rivendico la terza via. Un negazionista. Rivendico la terza via, mi sono autodefinito buonsensista. Buonsensista. Va bene. A 100 tutti stasera alle 21 o 21.30 c'è Manera alla Rocca. Non si rompete i coglioni, qualunque cosa, mia bella sposa, il venerdì resta fuori, che è venerdì. Nessuno, centomila. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.